Il forum si è chiuso con un documento finale nel quale si mettono in luce alcuni punti comuni relativi alla Costituzione europea, a quello che è il trattato che dovrà essere ratificato a Roma la settimana prossima, trattato che non piace ai movimenti. Quali sono le proposte che vengono quindi portate avanti nei confronti dei governi europei e le iniziative previste per la settimana prossima? Sì, diciamo che il documento che è uscito al Forum europeo di Londra è un documento che è un compromesso fra posizioni anche molto differenti nei confronti dell'approccio sul trattato costituzionale, però ci sono alcuni punti, come dici tu, su cui si è trovata una convergenza e su cui poi si inizieranno delle battaglie politiche all'indomani appunto di questa firma del trattato. Sicuramente il primo punto su cui tutti sono d'accordo è il discorso sulla cittadinanza europea, che non deve essere più legata alla nazionalità ma deve essere legata alla residenza, quindi bisogna dare diritti a tutti i cittadini indipendentemente poi da dove, dalla propria nazionalità, e questo è un punto che è stato discusso diciamo approfonditamente durante il forum, durante i seminari, e si collega poi anche ai diritti dei migranti e quindi a tutto il discorso dell'immigrazione. Poi un altro punto importante è quello della pace, nel senso che l'Europa deve diventare un continente di pace, quindi deve rifiutare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Anche su questo punto c'è un altro punto su cui l'attuale trattato costituzionale è un po' carente, perché la pace è vista come un obiettivo ma non è considerato un valore fondante. Poi per quanto riguarda le iniziative della prossima settimana, ce ne sono due. Una è il 29, lo stesso giorno in cui verrà ratificato, firmato il trattato costituzionale, ci sarà un seminario dal titolo Verso una Costituzione Democratica Europea, organizzato dal Movimento Federalista Europeo e dal Forum per la Democrazia Costituzionale Europea. E sarà un dibattito su come andare oltre questo trattato, perché comunque anche se verrà firmato non sarà la fine del processo ma sarà l'inizio di un processo costituente che dovrà vedere la partecipazione attiva dei movimenti sociali. E tra i relatori tra gli interventi previsti ci sarà quello di Vittorio Agnoletto, che è parlamentare europeo, e di Franco Russo, che è appunto del Forum per la Democrazia Costituzionale Europea. E poi invece il 30 ci sarà la grande manifestazione che sarà convocata dal Movimento Italiano, che però sarà fatta propria da tutto il Movimento Europeo, che sarà appunto contro il razzismo, contro la guerra e contro questo trattato costituzionale. Nicola, io ti chiedo soltanto adesso magari di ritornare al punto che forse vi vede più coinvolti, cioè questo proprio relativo alla pace e alle proposte che state portando avanti come associazione. Europace è una nuova tematica che è stata attivata all'interno del portale telematico Peace Link, che si occuperà proprio di Europa e di pace e delle politiche che l'Europa può fare per la pace. E dietro a questa rubrica ci sono delle persone che sono proattive verso gli Stati Uniti d'Europa, che sono federalisti europei, quindi credo che l'Europa possa essere un punto importante per una politica alternativa a livello mondiale agli Stati Uniti. E una delle battaglie che sono già iniziate sono quelle per inserire nella Costituzione europea un articolo simile all'articolo 11 della Costituzione italiana. E questa è una battaglia che deve diventare una battaglia europea, perché abbiamo già due costituzioni nazionali, che sono quella italiana e quella tedesca, che hanno già un articolo che prevede appunto il ripudio della guerra come strumento di risoluzione controversie internazionali. Bisogna che questa battaglia diventi europea, e si potrà sfruttare l'articolo 46 del nuovo trattato, che è quello sulla democrazia partecipativa, e prevede appunto che 1 milione di cittadini possano in qualche modo avviare un'iniziativa legislativa per modificare quella Costituzione.